Ovviamente, diciamo, stiamo vedendo tutti quello che sta succedendo in Ucraina, ma con lenti molto confuse anche da quello che passa la stampa italiana. Sembra che stia accadendo una guerra senza nessun motivo. Sappiamo invece qual è la ragione di fondo. La ragione di fondo è una continua espansione della NATO a est, nonostante trattati internazionali già firmati e oltre al buonsenso che non si possono mettere delle basi militari offensive di fronte a un paese che non le vuole. Questo ovviamente è aggravato anche dalla questione delle risorse energetiche che arrivano dalla Russia ai paesi dell'Europa. In questo clima di tensione c'è qualcuno che sta soffiando sul fuoco, ovviamente l'intelligence americana, ma purtroppo vediamo anche come i politici italiani e la stampa si stiano accodando a questi cori di guerra e a cui dobbiamo assolutamente opporci in ogni modo. Ti chiedo di ricordare dunque l'appuntamento. L'appuntamento è quindi per tutte le persone, per tutti i compagni, per tutti i cittadini che vogliono dire no alla guerra, dicendo no all'offensiva e all'espansionismo della NATO, in piazza San Francesco alle ore 16.